Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna. Bisogna, cara Deborah, buongiorno innanzitutto, bisogna fare un esercizio proprio di fantasia per capire com'è che è stata prescelta questa canzone cantata da Mina, dalla sì. grande Mina, Tintarella di Luna, per introdurre le plurime notizie relative alle bollette telefoniche. Essendoci stato il weekend, io ho temuto di aver staccato un po' troppo il cervello e quindi per questo motivo non riuscivo a giustificare la scelta di questa canzone. Allora, e poi ti Tintarella di aiuto. Luna, ho anche pensato al capodanno lunare della Cina che è finito. Hanno riaperto i listini cinesi con il tonfo che adesso commenteremo, invece non c'è neanche questo dietro alla no. scelta di questa coreografia musicale. Spiegami. Allora, il tema è che una fase lunare si completa in 28 giorni, così come speravano e si noi donne completassero le dovremmo saperlo, bollette, e noi tra donne l'altro. dovremmo saperlo, e la chiudo qua. E così come speravano di chiudere le fasi delle bollette sì, le compagnie telefoniche, mal gliene incolse, perché come sappiamo poi è intervenuto financo il Parlamento con un apposito comma, poi ribattezzato anche il Roscianellum, Roscianellum. Qui dai nostri esperti. Questo comma ha detto, no, il 28 giorni no, anzi restituite, favore, fate il favore, quanto avete prelevato passando in modo così d'imperio alla bolletta a 28 giorni. Allora, la vicenda ovviamente si trascina con... Da almeno 4 anni. Sì, con rivoli anche giuridici complicati. Allora, che è successo? Da ultimo... È successo che l'antitrust ha multato... Che non aveva la luna storta, ma era proprio ben deciso nella sua iniziativa. L'antitrust ha dato una prima multa alle quattro compagnie telefoniche maggiori, diciamo anche i nomi, tanto non credo che no, la loro pubblicità sono... dipenda dal fatto che io le citi oppure no. TIM, Vodafone, Fastweb e Wind 3. Non tutte la stessa cifra, hanno avuto attribuita, no. ma c'è una... Cioè, ci sono delle sanzioni differenziate. Queste compagnie complessivamente hanno ricevuto una sanzione per 228 milioni di euro. Perché? Perché secondo l'antitrust avrebbero fatto cartello, quindi avrebbero fatto un'intesa anticoncorrenza proprio nel momento del repricing, cioè quando dovevano tornare ai 30 giorni in luogo dei 28. Avevano, non volevano insomma... rinunciare a quel più 8,6% di aumento che avrebbero naturalmente incassato e quindi l'hanno rispalmato nella nuova modalità appunto di fatturazione alla clientela. Questo è stato raccontato, diciamo, molto bene sul Sole 24 Ore per questo intervento dell'antitrust, ma peraltro non è l'unica cosa che è stata decisa, cara Deborah. No, che cos'altro è stato deciso, scusami? Perché oltre a questa sanzione, diciamo così, per le quattro compagnie, c'è stata anche una censura per una delle quattro compagnie ah, sì. perché ha così messo in atto dei comportamenti di marketing aggressivo, specialmente di telemarketing, sono queste telefonate, sai che ci sarebbe anche sempre una legge da finire di attuare, la legge di 2 anni fa, la numero 5, ah, no. no, proprio sulle telefonate moleste. Ah, sì. Adesso è stato varato, ma in prima lettura, il decreto che dovrebbe aggiornare tutto quanto e metterci finalmente nella condizione di iscrivere i cellulari sul registro delle opposizioni. Piano piano, la legge ha compiuto 2 anni adesso, chiaramente ha cominciato adesso a camminare, poi andrà all'asilo, vediamo, forse per la maggiore età riusciremo ad averla. Allora, intanto non è tutto finito qua, come si potrebbe immaginare, perché le compagnie rispetto alla misura dell'antitrust hanno già fatto sapere che prenderanno le loro controiniziative, contromisure, e c'è a questo punto la possibilità di agire nei confronti, no, praticamente andranno al Consiglio di Stato per opporsi a questa misura dell'antitrust, a questa sanzione, a questa multa da 228 milioni di euro. Poi nel frattempo, chi in un modo, chi in un altro, chi non ha fatto nulla, in realtà qualche cosa stanno restituendo ai consumatori, appunto, che hanno pagato in più quando le fatture erano emesse appunto ogni 28 giorni. E qui c'è una testimonianza anche di un nostro ascoltatore, Bruno, che ci aveva proprio segnalato la modalità con cui ha dovuto chiedere a TIM la restituzione del sovrapprezzo pagato appunto per un tot di settimane. E praticamente l'ascoltatore aveva compilato, cercandolo nel sito di TIM, in questo caso il modulo appunto dove doveva indicare la prima e l'ultima fattura pagata appunto secondo la fatturazione a 28 giorni, e con la frase "non intendo accettare proposte alternative", non l'ho scritta a caso. Lui ha anche, come dire, precisato che avrebbe voluto indietro proprio il denaro e non quindi il denaro, servizi aggiuntivi che molte compagnie appunto hanno proposto per in qualche maniera indennizzare i consumatori che si sono sentiti un po' presi per il naso. E nella lettera che mi hanno inviato il 28 gennaio, quindi meno di 2 settimane dopo la sua richiesta, gli hanno specificato che renderanno indietro quanto dovuto salvo decisione finale del Consiglio di Stato. Sì, non abbiamo diciamo ancora visto la parola fine no, di questa lunga saga, però noi siamo qui, ci fa piacere che il nostro ascoltatore, che peraltro ha seguito assiduamente le varie puntate che abbiamo dedicato al tema, abbia comunque potuto trovare giovamento, attende il, diciamo così, il conquibus, sì, che, lo precisiamo Deborah, non è che poi siano tantissimi soldi singolarmente. No, esatto, infatti sono proprio questioni di principio. Vedo che anche questo ascoltatore Bruno ormai l'ha presa questa vicenda esattamente come tale, insomma, una questione, allora, di puntiglio. Se volete tutti gli aggiornamenti sulle bollette in questo 2020, vi consiglio di recarvi in edicola, oppure anche via tablet, via computer, quello che volete, e accedete a Il Sole 24 Ore, che nel numero odierno presenta La Guida dell'Esperto Risponde. Come ogni lunedì, questa settimana La Guida dell'Esperto Risponde è proprio dedicata alle bollette, bollette nel senso complessivo, quindi parliamo anche di bollette dell'acqua, bollette del gas, bollette dell'elettricità. Un consiglio di lettura, ma anche, se volete, di acquisto. Noi invece questa mattina... Ti leggo intanto un messaggio di un ascoltatore. Prego. Paghiamo sempre noi consumatori, io pagavo circa 10 euro per i 30 giorni, poi pagavo 10 euro per i 28, adesso pago 12,50 euro per i 30 giorni. E vedete che qua, insomma, l'aumento c'è stato, per cui è inutile attaccarsi al Consiglio di Stato, perché tanto questo è stato il comportamento che hanno seguito, per cui poi avranno le loro ragioni. Noi non stiamo a discutere di politiche commerciali all'interno delle aziende. Detto questo, le modalità con cui vengono poi queste rimodulazioni tariffarie scaricate sui consumatori non sono chiare, e questo è il punto che noi contestiamo. Bene, e allora, dopo aver precisato questa nostra posizione, sì, che speriamo che ci consentano di usare le linee telefoniche ancora per la puntata di odierna. No, ma io non ho mica detto niente, nel senso che ogni compagnia ha il diritto di fare quello che vuole, l'importante è che lo comunichi ai suoi clienti in maniera chiara e trasparente, in modo che noi possiamo fare tutte le nostre scelte. E con questo abbiamo precisato la nostra posizione. Se non ci tagliano i fili, potete telefonarci 800 24 0024, no, per intervenire in diretta, all'ufficio stampa come al solito, oppure 349 238 6666, se volete mandarci dei messaggi via SMS o tramite l'applicazione WhatsApp. Sì. Di che parliamo oggi? Naturalmente di Meteo Borsa. Certo. E sarà la prima parte del programma, come ogni lunedì. Poi avremo il giornale Radio del Risparmio con tante notizie. Poi, siccome ogni promessa è debito, venerdì vi abbiamo fatto una promessa e noi le manteniamo. E parleremo quindi della Brexit. Che cosa cambia? Abbiamo già detto, non è che sia cambiato il mondo da sabato scorso, perché c'è tutto questo periodo, tutto il 2020 sarà dedicato a raggiungiamo accordi per quanto riguarda le merci, per quanto riguarda i capitali, per quanto riguarda lo spostamento delle persone. Però, pur non succedendo nulla, qualcosina comincia a cambiare e qualcosa va messo in conto, specialmente per chi ha attività economiche di interscambio con il Regno Unito. E allora parleremo di Brexit con, ovviamente, esperti di valore mondiale. Così come esperto, sì, di valore mondiale penso sia il nostro amico meteoborsologo del giorno. Te lo presento subito. Meteo Borsa. Mahomes throws, pass, caught, Williams, touchdown! Kansas City jumps on top. Allora, caro Mauro, dopo il lipstick index, l'indice del rossetto, te lo racconto un'altra volta che cosa ci misura questo indicatore, oggi voglio parlarti invece del Super Bowl Indicator. Sì, che ci racconta che, dato che domenica sera, ieri, la finale del campionato di football americano, come avete sentito appunto dal brano che abbiamo riportato, è stato vinto dal Kansas City, una delle formazioni che facevano parte dell'American Football League prima della sua fusione nel 1970 con la più vecchia National Football League. Sì. Allora, siccome è una società che ha così tanti anni alle spalle, sembra che Wall Street, a causa di tutto ciò, chiuderà il 2020 in rosso, perché si è avverata la profezia del Super Bowl Indicator. Perché quindi, se vince una squadra che veniva dalla AFL, esattamente, dall'American Football League, allora Wall Street andrà male, e se invece vince una dell'NFL, del National, esatto, Football League, Wall Street andrà bene. Pare che questa, allora, già abbiamo l'anno del topo del Capodanno cinese, sì, abbiamo già avuto il super cigno nero con il coronavirus, e quindi insomma abbiamo l'anno elettorale americano, e tutti ci dicono che generalmente quando ci sono anni di questo tipo in campagna elettorale l'economia si ferma perché attende di capire quale sarà il prossimo presidente della Casa Bianca. Insomma, abbiamo già detto che nel 2020 è pure bisesto. Sì. Io, guarda, allora lancerei una, sì, ufficialmente, hai un cornetto, sì, dietro no, in lancerei tasca. Ufficialmente il Telefisco Index. Davvero? Sì, perché giovedì abbiamo avuto un sacco di partecipazione al Telefisco, tantissime anche in via digitale, anche delle risposte molto interessanti che sono state riportate sul Sole 24 Ore, e oggi ne trovate delle altre da parte del Ministero dell'Economia, ad esempio. E allora, siccome mi pare che il Telefisco sia stato ricco e portatore di tanti chiarimenti, a me questo sembra un buon auspicio, poi Wall Street faccia un po' quello che gli pare, o al massimo chiediamolo ad Alessandro Aspesi, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Noi cominciamo in maniera sempre un po' colorita la nostra trasmissione, però di fatto, pur scherzandoci un po', lasciando da parte il football americano, tutte le altre tematiche che abbiamo citato in elenco, Aspesi, sono state quelle che hanno un po' infastidito fino a questo momento i mercati, e la questione anche della campagna elettorale americana, che un pochino forse congelerà le scelte di investimento di grandi operatori finanziari, ci sta anche. In ogni caso, stamattina l'Europa ha aperto benino, e il mercato, diciamo che si aspettava questo tracollo della borsa cinese, meno 7,72% sul principale paniere, perché chiaramente, essendo stata sospesa per le festività del Capodanno cinese, oggi ha digerito tutti i ribassi che già tutti gli altri listini internazionali hanno messo a segno la settimana scorsa. Quindi forse il vero test sarà quello di domani per i mercati Aspesi cinesi, orientati, diciamo, l'area, il continente asiatico. Sì, parlando di meteo borsa, diciamo che il clima è ancora orientato al nuvolo, con possibilità di pioggia, insomma, rispetto a quello che vediamo qui a Milano, dove invece le nuvole ormai sono sparite da mesi. Sicuramente c'è da considerare un duplice aspetto: quello che i mercati ovviamente non amano l'incertezza, e in questa fase dove non è ancora chiaro quello che sarà un impatto sull'economia cinese, tendono a prendere delle posizioni o ribassiste, o perlomeno vanno verso quelli che vengono chiamati investimenti di alta qualità. Quindi abbiamo visto rafforzarsi le classiche valute giapponesi e svizzere, e nello stesso tempo un approccio molto positivo per quanto riguarda i titoli governativi, soprattutto quelli americani, che offrono una possibilità di rendimento leggermente più alta che quelli europei. La discesa del 7-8% che abbiamo visto questa mattina è, secondo me, ragionevole, anzi ci si aspettava addirittura un'apertura ancora più negativa. Quello che sarà importante è capire, anche in concomitanza con il picco del coronavirus che è previsto intorno a metà febbraio, quello che sarà l'impatto sul prodotto interno lordo cinese. Abbiamo visto qualcosa nel 2003 con la SARS, dove ci si avvicinò a una riduzione di circa il 2% del PIL. quelli saranno poi dati importanti sui quali verranno inserite delle considerazioni anche di lungo periodo. Quello che vediamo oggi è un grande temporale e bisogna capire poi quello che rimarrà dopo questa condizione negativa. Tra l'altro la banca centrale cinese di fronte a questo temporale ha aperto il suo ombrello e ha deciso di iniettare 1200 miliardi di yuan di liquidità sui mercati, sono oltre 150 miliardi di euro, proprio per sostenerli di fronte allo shock degli effetti del coronavirus. Mauro, mi chiedevo, ma rispetto alla famosa guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, questo coronavirus che poi sta bloccando tutti i collegamenti, sta fermando delle attività, come altera questo scontro in atto tra le due potenze? Ah, qui è proprio il paradosso che abbiamo vissuto con questa tempesta a ciel sereno. L'Asia era addirittura a inizio anno una delle aree preferite da parte dei gestori professionali degli investimenti, in quanto le aziende, soprattutto cinesi, erano riuscite a internalizzare quella che viene chiamata la catena del valore, cioè tutto ciò che viene utilizzato per la produzione di merci e servizi internamente, e avendo quindi addirittura un'indipendenza di circa un anno e mezzo per quanto riguarda la normale catena produttiva. E quindi avevano risposto in maniera molto positiva a quello che erano state le minacce sui dazi. Ora questo shock esterno ovviamente andrà sicuramente a ridurre la capacità produttiva dell'economia cinese, e nello stesso tempo arriverà una doccia gelata anche per quanto riguarda gli Stati Uniti su quello che si aspettavano come potenziale contropartita firmata nell'accordo di gennaio. Insomma, adesso la situazione è molto complicata, non ci aspettiamo che gli Stati Uniti alzino la voce in questo contesto molto difficile per l'economia cinese, ma è stato come raddoppiare quelle che erano le possibilità e i rischi derivanti dagli accordi sui dazi. Intanto complessivamente le statistiche macroeconomiche che stanno arrivando non sono molto incoraggianti. Questa mattina abbiamo tutta la ricognizione sull'attività manifatturiera in Europa, abbiamo avuto i dati del PIL venerdì scorso che su Milano hanno rappresentato veramente una doccia fredda, perché abbiamo avuto questa battuta d'arresto dello 0,3% nell'ultimo trimestre del 2019. Poi per quello che riguarda invece questa settimana abbiamo la ripresa di numerose trimestrali, arrivano a rassegnare i dati i colossi finanziari, anche italiani peraltro, perché venerdì pubblicheranno i conti Intesa San Paolo, Unicredit, Mediobanca, e poi ci sono anche Société Générale e tanti altri grandi gruppi. La stagione delle trimestrali poi tutto sommato Aspesi sta proseguendo anche abbastanza bene, soprattutto a Wall Street. Abbiamo visto quello che è successo con Amazon e con i colossi dell'high tech. Bisognerà vedere quanto resisteranno tutte le grandi aziende a questo quadro complessivo che sta emergendo, determinato appunto dalla situazione sanitaria. Sì, sicuramente poi le aziende legate al settore tecnologico sono le aziende che oggi in assoluto hanno la capacità di mantenere nel lungo periodo i vantaggi competitivi e il potere sul prezzo, quindi quello che riescono a chiedere ai consumatori in termini di prezzo per i servizi che offrono. Anzi, con quello che abbiamo visto in Cina, questo grandissimo rallentamento che c'è stato anche a livello di consumi in loco, è stato più che compensato da un aumento del commercio online, quindi sono andate a ruba tutte le vendite online, che hanno permesso comunque di approvvigionare le famiglie senza far uscire di casa. Certo, però poveretti sono quelli che consegnano i pacchi, poi che si vanno in giro a beccare. No, vabbè, insomma, sono un po' condizionata perché ieri ho visto Sorry We Missed You di Ken Loach, e quindi ho un po' in testa la vita di questi poveretti che consegnano pacchi. Detto questo, ne parleremo in un'altra trasmissione, sarò tocca a ritornare sui delivery. Abbiamo parlato diverse volte, qualche mercoledì lo dedicheremo sicuramente ancora. Certo. Io vorrei chiudere chiedendo ad Aspesi di farci quasi una sorta di promo per il tema della seconda parte della trasmissione, cioè Brexit. Premesso che dobbiamo ancora vedere che cosa succederà, però probabilmente le rifaccio una domanda che già le ho fatto in altre occasioni, in altri Meteo Borsa. I mercati sembrano aver già digerito questo passaggio, che non è di poco momento, però finché probabilmente non si arriva a degli accordi tutto va avanti così, e quindi per tutto il 2020 Brexit non sembra qualcosa che preoccupa i mercati. Sto sbagliando? No, sta assolutamente sbagliando. Le aziende che hanno reagito più rapidamente a seguito della decisione intrapresa nel 2016 con il voto inglese sono state quelle legate ai servizi, che hanno cercato subito una possibilità di diversificare sul suolo europeo o Euroland le proprie attività. Quindi abbiamo visto subito il settore finanziario comunque aprire dei nuovi canali proprio per ovviare a quelli che potrebbero essere i futuri problemi relativi a passaportare quello che veniva prodotto in passato in Inghilterra. Rimane invece molto caldo il tema relativo all'economia interna e soprattutto al settore della grande distribuzione, dove volente o nolente l'Inghilterra comunque si troverà a pagare dei prezzi più alti per quanto riguarda le merci, e non avendo grandissima possibilità di scaricare poi sul consumatore finale questo maggior prezzo. Quindi io dividerei forse quello che è l'economia domestica inglese, che non ha ancora espresso il peggio, diciamola così, rispetto a economie più orientate ai servizi o alle esportazioni, dove invece i numeri sostanzialmente sono proseguiti in un trend positivo. Quindi sicuramente la sterlina dovrà perdere valore nei confronti delle altre valute, e quindi aziende che comunque sono delle esportatrici nette non potranno che avvantaggiarsi da questa situazione. Ma è comunque una lunga partita, non è sicuramente un qualcosa che verrà deciso nei prossimi 8-9 mesi, e molto poi dipenderà dalle contrattazioni, certo, e da che status l'Inghilterra avrà nei confronti dell'Europa. Questa fase di transizione sarà molto interessante proprio per definire con maggior chiarezza questi aspetti. Grazie ad Alessandro Aspesi per essere stato con noi, buona giornata e buona settimana, a presto. Grazie a voi. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Isolato allo Spallanzani il coronavirus, nuove speranze per la prevenzione e la cura, 3 donne nel team dei ricercatori. L'effetto coronavirus comincia. Allora, l'emergenza coronavirus sta condizionando il settore dei trasporti aerei, lo raccontiamo continuamente, con migliaia di voli annullati e rinunce da parte dei viaggiatori che non sempre si vedono rimborsare il volo o il pacchetto turistico acquistato. Vi segnaliamo il vademecum che è stato elaborato dall'Associazione dei Consumatori Confconsumatori, che ricorda e segnala come i consumatori che per esempio hanno acquistato un pacchetto turistico che comprenda la visita in Cina possono tranquillamente recedere prima della partenza. Su questo aspetto del biglietto aereo anche l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, l'ENAC, è intervenuta comunicando il 31 gennaio che, su disposizione delle autorità sanitarie nazionali, ha provveduto appunto a sospendere tutti i collegamenti aerei da e per la Cina. Pertanto i voli saranno cancellati e di conseguenza il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato. Quindi consumatori, andate a vedere tutti i diritti vi devono assolutamente essere riconosciuti in questa fase un po' problematica per molte persone. E ancora sul coronavirus, velocissimo, l'ufficio studi FIPE Confcommercio ha stimato che l'allarme suscitato dalle notizie sulla diffusione appunto di questo virus stia mettendo in grande difficoltà la ristorazione cinese in Italia, lo sappiamo, sono usciti anche molti articoli sui giornali, ne abbiamo parlato qui a Radio 24. Nei circa 5.000 ristoranti cinesi si registra una perdita di fatturato del 70% in termini assoluti, secondo le stime appunto di FIPE Confcommercio, significa meno 2 milioni di euro al giorno, quindi una perdita di 2 milioni di euro al giorno. Certo. Allora senti, per rincuorarmi un po', sai che cosa vorrei fare? Vado sul sito dell'INPS a vedere se hanno predisposto l'ISEE precompilato, così mi distraggo un attimo. Ti confermo che c'è, l'avevamo segnalato, l'avevamo annunciato, sì. Da oggi 3 febbraio è possibile accedere alla DSU, la dichiarazione unica sostitutiva, in modalità precompilata, quindi il cosiddetto ISEE precompilato, sul sito dell'INPS. Dovete andare su inps.it e poi da lì cercare nella sezione prestazioni e servizi, nella voce tutti i servizi. Per facilitare il percorso vi diciamo che l'abbiamo messo anche sul Twitter, lo mettiamo anche sul Facebook, così perché non lo è trovate. Immediata immediato il ritrovamento, dobbiamo dirlo, signor IMSS lo metta un pochino più in evidenza. Comunque intanto c'è, ecco, abbiamo dato questa indicazione. E tutto ciò premesso, cara Deborah, dacci un veloce aggiornamento sui mercati finanziari. Tardissimo, vado. Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo. di denari. Sì, ma 228 milioni di euro per queste compagnie qua non sono nulla, ragazzi. Dovrebbero anche cominciare a restituire quell'euro che ci ciulano ogni ricarica che facciamo. Sono Gisella da Bergamo, anch'io vi sto seguendo in trasmissione, anch'io ho mandato la lettera di richiesta di rimborso a TIM, la quale mi ha risposto, ma mi ha anche rimborsato in fattura il mese scorso quanto dovuto. Se fai la ricarica presso un tabaccaio ti prelevano un euro e continuano a farlo nonostante sanno che non possono farlo, fanno delle offerte promozionali chiamandoli per sempre, tu aderisci a queste offerte, dopo 2-3 mesi te le cambiano e dicono che lo possono fare. Senti, non rifacciamo l'altro editoriale, mettiamo in cascina una puntata. Guarda, adesso da domani siamo a consulenza, giusto? Sì. Quindi dobbiamo parlare di come investire, dove investire. Una settimana direi e come comportarci. Però adesso ci segniamo con la massima urgenza tra le priorità della nostra agenda, quindi due di denari, torneremo a parlare delle bollette a 28 giorni, delle ricariche, eccetera, perché le sfidiamo segnalazioni... le compagnie a venire a raccontarci un po' il loro punto di vista su questa vicenda. Siccome un po' contestano in genere che non diamo abbastanza preavviso per interpellare i loro interlocutori, per spiegare le cose, allora oggi è lunedì. Noi torniamo da consulenza venerdì, sfidiamoli a venire in trasmissione a raccontarci sul perché e per come decidono di fare il rimborso o meno, di applicare una fatturazione rispetto ad un'altra. Una delle quattro, noi siamo assolutamente disponibili. Ci possono telefonare se ci lasciano naturalmente il collegamento, se no anche c'è la cara vecchia email, la posta elettronica, sì. Due di denari, scritto con le lettere, due di denari @radio24.it, vale per gli ascoltatori e anche per i confutatori, potremmo chiamarli così, operatori telefonici. Brexit, abbiamo in collegamento il collega Biagio Simonetta, buongiorno Biagio. Buongiorno a tutti. Allora Biagio, tu hai composto anche di recente, cioè proprio negli ultimissimi giorni, una serie di avvertenze, indicazioni che vi succede dal 1 di febbraio, proprio parlando, per così dire, dei bisogni comuni. Un pochino abbiamo affrontati anche venerdì, ma se intanto ci fai un veloce riepilogo ne gioviamo tutti, prego. Dal 1 febbraio fondamentalmente non è cambiato nulla, nel senso che adesso c'è un periodo di transazione che si è presa l'Europa e si è presa il Regno Unito, e tutto è rimandato diciamo al 1 di gennaio del 2021, quando gli effetti della Brexit saranno reali anche su chi viaggia. E almeno da quello che hanno detto in fase di campagna elettorale il partito di Boris Johnson, quello che succederà potrà essere veramente di grosso impatto da questo punto di vista, perché per esempio la prima cosa che mi viene da dire è dal 1 gennaio del 2021, se vogliamo andare nel Regno Unito, la carta d'identità non basterà più, ci servirà il passaporto. Mentre l'accettano ancora per tutto questo, per questi 11 mesi del 2020. Sì, per il periodo di transazione è ancora accettata la carta d'identità. Dal 1 gennaio 2021 invece sarà obbligatorio il passaporto, ma sarà obbligatorio anche un visto elettronico, quindi non soltanto il passaporto, un visto elettronico che per chi magari è stato negli Stati Uniti o in altri paesi che lo richiedono, ma è simile all'ESTA per capirci, no? Sì, quindi sì, qualcosa che viene fatto comprare, per gli Stati Uniti. Esatto, che si può comprare online a prezzi abbastanza modici, $14, guarda, $14 per chi va negli Stati Uniti. Esatto. Sì, non so adesso cosa penseranno gli inglesi di questa cifra qua, loro sono sempre un po', no? E l'altra cosa invece particolare è che questo visto elettronico durerà 3 mesi, da quello che abbiamo potuto capire, almeno da queste prime fasi, perché poi Brexit è un discorso molto in divenire dal punto di vista di quello che succederà da gennaio dell'anno prossimo. 3 mesi, che vuol dire? Che per 3 mesi, se chiunque voglia andare a visitare il Regno Unito, stare lì massimo 3 mesi, può fare questo visto. Chi invece va lì ha bisogno di un permesso particolare, sarà necessario per esempio un permesso di lavoro per chi si vuole stabilire lì a Londra o in altre parti. Quindi questo complica un po' di cose, diciamo, perché oggi gli italiani che sono a Londra sono tantissimi, stanno a Londra senza, diciamo, questo bisogno. Questa cosa qui avrà degli impatti abbastanza importanti che verranno chiaramente valutati successivamente. Senti Biagio, noi abbiamo parlato tanto di tariffe telefoniche fino a poco fa, appunto, ma invece per chi va a Londra che tipo di piano tariffario dovrà adottare, dovrà fare qualcosa di speciale? Certo, assolutamente. Allora, anche in questo caso è molto un discorso che va valutato cosa succederà da gennaio del 2021. Per ora l'Europa ha fatto capire che rimarrà in vigore fino al 1 gennaio del 2021 quella che è la regola attuale, quella sul roaming, che è stato abbattuto sostanzialmente da una legge dell'Unione Europea già nel 2017, no? Quindi chiunque va oggi in Gran Bretagna, in Regno Unito, continua a non pagare un sovrapprezzo rispetto al suo, diciamo, contratto di telefonico che c'ha magari in Italia. Da gennaio 2021 invece, dal 1 gennaio 2021, le cose dovrebbero cambiare, perché non facendo più parte dell'Unione Europea decade anche questa normativa sul roaming. Quindi che succede? Succede che probabilmente ognuno di noi dovrà capire col proprio operatore telefonico quali saranno quanto gli costa fare, ricevere telefonate, scaricare dati, stabilire connessione dati, esatto, quando va nel Regno Unito. Questo però, esatto, rassicuriamo, succederà dal 2021. Però, cara, a meno, Deborah, che non ci siano cambiamenti improvvisi adesso, però sia l'Unione Europea che il Regno Unito si sono presi questi 11 mesi, diciamo, li hanno definiti di transizione, quindi vale anche per le tariffe telefoniche. Speriamo, certo, che non diano da fare anche all'antitrust europea, allora, le compagnie telefoniche, mi viene da malignare, ma allora, speriamo di no. Invece ti ho scomodato un altro esperto. Esatto, perché dobbiamo parlare anche un po' di traffici, magari commerciali, un pochino più complessi, della vita delle aziende che intendono esportare merci o magari intendono importarle, non che noi importiamo chissà che cosa dal Regno Unito, e però in realtà sono al contrario, no? Le merci che vanno verso oltre Manica, che sono quelle un po' più consistenti. Guarda, qui noi abbiamo un esperto di valore mondiale che è anche autore sul Sole 24 Ore già da tempo di articoli sulla Brexit, in realtà da molti anni autore per il Sole 24 Ore, che è l'avvocato Benedetto Santacroce. Buongiorno Benedetto. Buongiorno, buongiorno. Ho sentito che parlate di traffici, è brutta la parola, parla traffici, sembra che dobbiamo spostare chissà che cosa. Non dica così, scambi, Santa Croce, che fra un po' abbiamo quello istituzionale di Radio 24 e quello il traffico è, vabbè. No, allora, scambi, ma che succede? Anche lì fino a tutto il 2020 si va avanti tranquillamente o invece bisogna cominciare a preoccuparsi? Allora, il tranquillamente, come si dice, è morto, nel senso che il problema di fondo è che se voi volessimo guardare il calendario e quindi le condizioni che sono state anche firmate dalla regina Elisabetta, evidentemente ci portano al 1 gennaio del 2021, quindi chiaramente anche sulle merci e quindi l'applicazione dell'IVA intracomunitaria piuttosto che la mancanza di blocchi tariffari e in particolar modo di obbligazioni doganali, quindi dichiarazioni e quant'altro, evidentemente aspetteremo fino al 1 gennaio del 2021. Ciò non toglie che però qualcosa le imprese devono necessariamente fare. Perché? Perché il problema è che molto spesso attualmente noi stiamo chiudendo dei contratti per i traffici, per gli scambi di beni, sì, e gli scambi di beni li stiamo chiudendo adesso per gennaio, febbraio del prossimo anno. Cioè, voglio dire, il andare in qualche modo a rivedere questi contratti, le condizioni contrattuali e in particolar modo le responsabilità contrattuali, questo è un tema che bisogna fare subito. Faccio un esempio abbastanza semplice, cioè se io materialmente oggi voglio fare un contratto di deposito in Inghilterra, devo capire bene quali sono le condizioni contrattuali con cui io vincolo queste merci in quel deposito. C'è un contratto mediante il quale, per esempio, io consegno le merci mantenendone la proprietà. Ecco, questo tipo di contratto, che si chiama all'inglese consignment stock. È un contratto che evidentemente va ragionato adesso. Cioè, io non farei, non stipulerei mai un contratto di consignment stock oggi per il 2021. Perché non sappiamo quale regime avremo. Assolutamente. Ti fermo, perché adesso appunto abbiamo parlato di traffici e come ha detto Deborah, non è nessuno scambio questo. È il momento del traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta... Due di denari. Salve, io risiedo nel Regno Unito, ma ho dei clienti in Italia che mi pagano in euro e quando mi pagano poi aspetto il momento migliore per cambiare da euro a sterlino. Secondo voi come sarà l'andamento di queste monete nei prossimi giorni? Perché ho visto che sta salendo e non vorrei aspettare ancora a cambiare perché poi perdo un sacco di soldi. Occhio, perché per quanto riguarda la valuta non ho nulla a che vedere questo con la Brexit, così come se io vado negli Stati Uniti e se un negoziante vuole accettare l'euro lo può fare, così potrà continuare a farlo il negoziante inglese, britannico. Non è una questione di uscita o meno, è solo una questione di voler agevolare o meno dei clienti. Sul tema della valuta, del valore della sterlina, prima un commento l'ha fatto anche Alessandro Aspesi di Columbia. Non mi sembrava ottimista sul valore, sulla tendenza di lungo periodo della sterlina. No, diciamo che l'auspicio potrebbe anche essere quello di un deprezzamento proprio per aiutare le società inglesi che devono esportare e quindi rendono la moneta un pochino più competitiva, magari anche attraverso delle azioni della banca centrale, proprio per proteggere l'economia complessiva da questa situazione ipotetica di difficoltà a cui potrebbe andare incontro quest'anno. Quindi in realtà l'auspicio del mercato è che si deprezzi un po' per sostenere l'economia britannica. Poi nel riaggiustamento con le altre non so quale potrà essere l'opzione più vantaggiosa per l'ascoltatore che chiede, ma diciamo non andrà ad apprezzarsi credo quest'anno, ecco. Allora mettiamo a profitto questa decina di minuti con due esperti di valore mondiale come sempre, Biagio Simonetta, Benedetto Santa Croce, i due aspetti, diciamo l'aspetto commerciale, economico più stretto della Brexit, l'aspetto più, se volete, popolare, più divulgativo affidato a Biagio Simonetta. Comincio da Santa Croce perché ho un paio di curiosità, avvocato. Allora, le decisioni della Corte di Giustizia UE in questi mesi valgono ancora e dopo, nel 2021, saranno carta straccia per il Regno Unito? Purtroppo sì, nel senso che adesso uno dei punti forti della precedente, diciamo, prima ministra inglese, uno dei punti forti della Brexit è proprio il fatto di non avere una forma di ingerenza da parte dell'Europa e in particolar modo in termini di Corte Suprema, proprio della Corte di Giustizia. Per cui sicuramente allo stato attuale nell'interregno la Corte di Giustizia continua a dare le sue opinioni anche sulle cause inglesi e continua ad essere, diciamo, imperativa da questo punto di vista, però dal 1 gennaio del 2021 l'Inghilterra si riprenderà totalmente dal punto di vista interpretativo le regole. Tenete presente che c'è una norma che è stata approvata nel 2017 e che diventerà operativa il 1 gennaio 2021, in cui tutto il diritto comunitario diventerà diritto inglese, per cui sostanzialmente le regole unionali diventano regole inglesi, sono sottoposte alla vigilanza interpretativa delle corti inglesi. Che però quindi vuol dire che potranno modificarle in autonomia. questo poi? Assolutamente sì. Ora, qui, proiettano nel sistema legale britannico le norme dell'Unione, ma a questo punto però poi ne fanno quello che vogliono e decidono anche in materia. C'è una forte dichiarazione da parte di Johnson e da parte anche del responsabile della politica di Brexit, che usa un termine, disallineamento, no? Cioè la volontà specifica è che nel momento in cui si riapproprieranno cominceranno a disallineare le norme. Quello che ci preoccupa noi evidentemente sul piano commerciale sono le barriere tariffarie, ma quello forse meno, perché secondo me con l'accordo di libero scambio potrà essere sistemato, ma il problema sono invece il disallineamento sulle regole non tariffarie, immaginate tutte i meccanismi tutela degli alimenti, tanto per dire qualcosa che noi esportiamo là. Esatto, tutela degli alimenti, per esempio, che potrebbero creare delle barriere non indifferenti ai nostri esportatori, perché a quel punto saranno degli esportatori. Per cui chiaramente il disallineamento è un problema che si pone fortemente per le nostre imprese, ma che secondo me si pone anche per gli operatori inglesi. Ovviamente noi siamo un forte esportatore verso l'Inghilterra, mentre sul piano dell'importazione, diciamo, è più legato alla componentistica piuttosto che al farmaceutico, quindi è legato a settori diversi, ma tutto, per esempio, l'alimentare, quello che tu citavi, evidentemente ha forte rischio di questo disallineamento, quindi uno sforzo che dovremo fare con la battaglia che si farà in questi 11 mesi, cosa che non arriveranno secondo me a nessun accordo, ma negli 11 mesi per l'area di libero scambio, l'accordo di libero scambio, evidentemente sarà proprio su questo. Deborah. No, una cosa divertente che non abbiamo ricordato venerdì scorso, questa invece l'aveva segnalata Simone Filippetti, il nostro collega che vive a Londra: il treno veloce francese, il TGV, che collega Parigi a Londra in 2 ore, passa sotto il canale della Manica attraversando l'Eurotunnel, è l'unico collegamento terrestre diretto fra Gran Bretagna e Europa. Cosa succede? Dal 1 febbraio, di fatto in realtà questa novità ci sarà dal 1 gennaio dell'anno prossimo, anche questo pendolino dovrà effettuare controlli di frontiera, un po' come succede se vai in Svizzera, perché può capitare appunto che i poliziotti salgano e ti chiedano dei documenti, e passare una dogana appunto all'arrivo a Londra e a Parigi come in qualsiasi aeroporto. Anche questa insomma una cosa interessante che succederà. Io, visto che andiamo verso obiettivo salute, anzi sì, a proposito abbiamo parlato di coronavirus, e salutiamo tutti i virologi in ascolto, naturalmente restate in ascolto di Nicoletta Carbone per la parte del coronavirus, per gli aggiornamenti. Chiedo invece a Biagio Simonetta: assicurazione sanitaria, perché ad oggi come cittadino dell'Unione se vado in Gran Bretagna ho delle tutele, mi pare di capire che queste vadano a sparire. Goodbye. È così? Chiaramente andranno a sparire anche queste qua, come le altre cose che ci siamo detti prima, diciamo dal 1 gennaio 2021 diventeranno effettive. Che vuol dire? Vuol dire che dal 1 gennaio del prossimo anno la sola tessera sanitaria, che è quella che ci garantisce assistenza sanitaria in giro per l'Europa, a Londra e nel Regno Unito in genere non avrà più valenza. Quindi se abbiamo bisogno per un'emergenza comunque di assistenza sanitaria, dal prossimo anno sarà necessario sottoscrivere un'assicurazione sanitaria, che è la stessa cosa che facciamo ogni volta che andiamo per esempio negli Stati Uniti. Il rischio è quello di potersi trovare per le strade di Londra o comunque nel Regno Unito senza un'assicurazione sanitaria disponibile, quindi diciamo che il consiglio è prudenziale attivare un'assicurazione privata extra quando si va in vacanza nel Regno Unito a partire dal prossimo anno. Tu consigliavi anche una certa cautela in uno dei tanti contributi che sono apparsi sul nostro sito, sole24.com, una certa cautela, attenzione, perché se poi viaggiate specialmente a cavallo d'anno, cioè questa fine 2020, sì, inizio 2021, attenzione che l'assicurazione copra il paese extraeuropeo, che sembra strano dirlo, ma è proprio la condizione sì, in cui ci si verrà a trovare. Quindi è proprio così, anche perché poi nella giungla dell'assicurazione sanitaria online c'è veramente di tutto. Ci sono assicurazioni sanitarie che non sono poi tali, ci sono assicurazioni sanitarie che valgono soltanto per determinati paesi, quindi quando si va a sottoscrivere un'assicurazione sanitaria sarà importante vedere quelle che sono già attive sul Regno Unito. Certo. C'era tutto il tema anche dello shopping affrontato dal secondo messaggio dell'ascoltatore che abbiamo sentito via WhatsApp, ce lo spiegava Simone Filippetti venerdì. Allora, fino a questo momento, andando a fare shopping da Harrods o negli altri grandi magazzini o in qualunque altro negozio appunto a Londra, era possibile utilizzare alternativamente sterlina ed euro. Adesso, in via teorica, dall'anno prossimo non sarà più possibile utilizzare l'euro, ma lui ci ha detto che in realtà, se qualche negozio, esercizio commerciale volesse farlo, diciamo, è tutto un po' demandato alla libera iniziativa dell'esercente. Ma questo io vorrei chiedere veramente in 10 secondi a Benedetto Santa Croce. Questo uno può sempre farlo, cioè come supporto al cliente uno può accettare. Succede anche con la vicina Svizzera, tanto per citare un caso. Il punto è se gli conviene dal punto di vista del cambio, come dicevamo poco fa. Non dovrebbe avere limitazioni, giusto, avvocato Santa Croce? No, non ha alcuna limitazione. Ora, il tema interessante forse è che potremmo avere un vantaggio solo perché se riaprirà il duty free. Ecco, questo potrebbe essere da ricordare, no? Cioè, nel senso che potremmo portarci l'alcol, che di solito l'inglese, insomma, con delle esenzioni, proprio perché probabilmente il duty free sarà una cosa che potremmo fare verso un paese extracomunitario. Certo, e per chi ancora fuma anche il tabacco, anche i prodotti che in Italia sono gravati come il tabacco, le sigarette elettroniche, eccetera. Per chi ancora fuma, dico. Però insomma abbiamo ancora 11 mesi di tempo per chiarire tutti questi aspetti, se ci appassiona tanto la vita inglese e andarci a fare un po' di giri. Perché mi guardi così? No, ti guardo perché più che appassionarci tanto è stato un grande richiamo, e secondo me lo sarà ancora per tanti, specialmente giovani, specialmente laureati, lo sappiamo. Tant'è vero che appunto il nostro amico Sergio Nava ne parla settimanalmente. Esatto, e magari faremo anche noi più avanti una puntata solo ed esclusivamente sugli Erasmus. Allora, la nostra trasmissione termina qua. Da domani fino a giovedì io e Mauro siamo in trasferta a Roma per consulenze all'evento della consulenza finanziaria, quindi faremo un bel check-up allo stato di salute di questo mondo, anche a quello dei mercati, possibilmente, che in questi